vuol dire che da uno ci muove a due, manco al tre arriva, di qua per me, niente, zero. Aspetta che faccio un giro, vedete? Ok, ok. Ciao, buonasera, Carlo Spagliero, ben ascoltato, ciao anche Ruby. Perché Luca sentiva splatter ma non riusciva a capire a chi era. Ha detto, boh, faccio un giro, ho sentito a voi qua. Buonasera a tutti. Buonasera Claudio. Hai visto, Carlo Spagliero qua dal Monte Basso, Buonasera, Salvatore Cobra mi pare aver ascoltato. Sì, sì. Ok, ciao Salvatore, buonasera, Carlo Spagliero qua la città di Sassari, Monte Basso. Avanti Roberto, cambio. Allora, per un passimi a Salvatore Claudio, perché è più vicino a Luca, mi sono di fronte all'astro. Che ha già passato, se Luca è a riso vuol dire che ha già passato. Non lo so, Clae, ma se mai di radio sei più forte di tu. Oh, provate! Prova Salvatore Cobra, prova, 1, 2, 3, 10, 20, 30, Claudio Spagliero. Una palla, Salvatore. Fai un zero in this moment. Ah? E hai capito. Ho capito. 5-0, 5-0, 5-1. Cazzo, ce l'ho fatto, ho capito. Ma è conosciuto ancora la classe. Io ci compri giù, è puro. E di fronte a me, là, capito? Arriva sparato qua, non so che te la stai usando, boh. Vabbè, segnale com'è, è uguale al mio, deve essere al mio. Ah, in questo momento tu sei 7, in questo momento. Come attenuazione, lui è 9. Ho capito. Ciao Salvatore, un abbraccio, ho capito. Ehi, ciao. è un grande, Luca, è un grande, un amico, è dei miei. Ci arrivo a noi, io Salvatore. E ti arrivi bene. Ah, no, ma ci arrivo. Ci arrivi. Abbassa un po' la amplificazione, sei troppo alto. Abbassa un po'. No, che sto scendendo il fumo a questa radio oggi, bene. Sotto. No, non vuoi pure la stessa. Vabbè, ma è un barbecue. E quasi. Vabbè, Salvatò, barone. Oh, Claudio, bene che vieni a passare sull'altra frequenza. Ma c'ho l'antenna attaccata, l'ho attaccata perché mi sono rotto le palle qua, sinceramente. Te lo dico per telefono, ci sentiamo, ci vediamo, mi sono rotto le palle, no, non sto più usando VU, sono sempre 40, 20, 80, sabato, non sto facendo attività lì. Niente, ti ho mai capito? Anche cosa ti ho chiesto, passare l'HF lì. Ah, l'HF è uscito per voi, 20, 40, 80, per voi sabato, non c'è problema. 80 no. Dove? 80 no, non ce la farò l'antenna. Comunque, dai 40 fino a 40, 20, 10, 15, non c'è problema. Ma c'ho l'antenna mia, adesso collegata dei 20, sono a 14.200, sabato, con l'altra radio, non c'è problema, dai. Se la fa una prova, non c'ho nessun problema. Ok, arrivo. Ciao ragazzi, ci sentiamo alle prossime, ciao ciao. Sabato, ciao. Anche io mi aspetto, ci sentiamo dopo, dai. Vai, Robè. Oh, scusa, perdonami, dai, mi porta Salvatore un attimino in 20 metri, facciamo una prova. Non c'è problema, già se vediamo sempre con Salvatore, non c'è problema. Ci sentiamo un attimo, momenti, ciao Salvatore, ben sentite, fatti sentire qualche volta, dai. Falche? Dimmi, Roberto. Quella è una persona che lavora su altre frequenze, stava facendo sentire un apparato che c'ha lui, però non è adatto per qua. Qua arriva la bomboletta. Da Luca io penso che li scioglia il baracchino, sono molto vicino. Forte qua, molto forte, tipo quanto è Franco, dai. Luca, yeah. Quando ti arrivo io? Vai, aspetta, vai. 5-6, prova. Sì, no, è spaccato qua. La radio è buona? Beh, siamo andati, dai. Cavagava, riprendi, Roberto. Sì, te lo dico, hai migliorato un bel falco. Ti spaccato, a te quando ti arrivo? 9 più 30. Va bene così, dai. Tu, come si chiama? Io come ti arrivo a te? Qual passaggio? Ora. 9 più 30. Come lo stesso segnale ci abbiamo, dai. Non c'è problema. No, quello lì stava uscendo con qualcosina di discreto, quello di prima, però va bene in banda laterale, in FM, in AM non rende quella parata. No, Salvatore, ma... Fammi un quanto nome, lo dai, guarda un po' il segnale, com'è? 1, 2, 3, vai. Fallo che non l'ho vista, va di nuovo il passaggio. 1, 2, 3, 4, vai, prova. 9, 15. Capo, vabbè. per i quattro. La radio va bene, cioè non senti qualche rumore strano, guarda, è importante. Senti la quattro del computer e basta, a te. Via, l'avventurina si sente, basta. Dai, via qua. Perché tu sei di più di 9.30? Perché Luca c'hai picchi a 9.30, tu sei picchi 9.35. Ciao, va bene allora, vai. La voglia, non mi sono problemi. Stai giusto, se ti muovi la mano, va, mi sciugi. Ah, vabbè, adesso facciamo i bravi per adesso, a stare magari vediamo un po', dai. Si fanno piano piano. Ma già lo sai, non passa la volta, Roberto. Io ho iniziato come hai iniziato tu, con l'Endicom 50S, bellissimo baracchino di lusso, e poi piano piano sono salito. Kappa, già va bene. Però fondamentale è l'antenna, se c'è una buona antenna anche con pochissimi watt vai molto di più che avere grosse potenze e un'antenna scadente. Ah, e quello è poco ma sicuro. Ma l'altra mattina stavo parlando con Gigi Vulcano e addirittura mi ha sentito dopo addirittura Bonova, Piavati di Bonova, diciamo, vai. Sì, sei aperto per quella direzione, infatti ho detto tu c'hai una buona posizione, se ti metti un'antenna anche tu ti fai sentire molto ma molto più forte di tante altre persone. Gappa, già va bene così, Robè, piccolino ma sincero, va. Allora, Robè, racconta, lavorata abbiamo oggi. Fanno più diluito, piano piano, sempre andando, oggi poi è stato un po' di movimento ho fatto, un po' di spostamenti, tornare, andare, fare, diciamo, oggi più degli altri giorni. Beh, ci credo, a me male crevato oggi. Vabbè, oggi verrà pure un freddo. A parte il freddo, Robè, male crevato trova gente. So, purtroppo, no? Tipo lavoro tu, è lavoro manuale, diciamo, lavoro di cariche, di forza e cose del genere, ma io non così, però ti fa anche l'umatessimo, la sera sei molto stanco. Oggi diciamo stasera, ma ieri notte l'ho distrutto, poi stamattina ho fatto qualcosina, diciamo, non è eccessivamente, poi però dopo pranzo, da presto, mi sono dovuto spostare, sono andato a fare un lavoro fuori, eccetera, eccetera. Kappa, anche tu già hai massacrato lo stesso, dai. Ma sei male, vedi anche tu, no? Avanti chi vuole entrare? Sì, Mondi. Stai mettendo l'antenna adesso, Mondi? Sì, l'altro è Falchetto, si è messo un apparato un po' più serio adesso, non so se lo ascolti. Tu qua sei Santiago 8 o tendente a 9. Avanti Falchetto per Mondino d'Alghero. Ehi, attento Mondino, si ascolti qua la stazione precaria e buonasera. Hai sentito, Mondi? Ehi, ciao Mondi, hai sentito. Non so se hai sentito, Falchetto ti ha salutato, però non ti ha sentito lui. Ho sentito Mondino? No, non ti ha sentito, vabbè, Alghero non è semplice arrivare con le antenne piccole, dai, ci vuole una buona antenna, anche se ce l'hai quasi di fronte, però l'antenna piccola non ce la fa. Ma lui non mi ha copiato niente? No, niente. Tu l'hai sentito a Luca? Io sì, ma il suo passo l'ho sentito. Vabbè, lui stava usando anche qualcosina, diciamo, si stava aiutando con qualcosa probabilmente, se no l'avresti sentito. Cioè, t'avrebbe sentito anche lui. Capacciamo, se l'ha cambiata l'antenna lui. No, è sempre con la stessa, c'è un'antenna piccolina tipo la tua, lui ci aiuta con l'apparato che è un buonissimo apparato, per quello che sa andare un po' meglio. Kappa, bene veda. Va bene, salutone Mondino, dai, se mi copi ancora, dai, salutone al 100% qua da Città di Sassari, cambio. Vabbè, c'è anche QRM, oggi c'è molta umidità in giro, QRM è molto, molto sensibile, diciamo, si sente parecchio. Kappa, prova a fare la chiamata tu, Robè, se ne ha sentito, lo faccio un attimo di bianco. No, ha salutato, non via. Kappa, ti prendo subito, mi squilla il telefono, Robè. Vai. Peck? Ciao Roberto, ciao anche a Falchetto. Allora Roberto, come stavo commentando già, hai detto che cosa è successo, avevo tutti i segnali in basso, ci avevo la chiamata inserito perché poco fa c'era un amico Salvatore, non mai c'era un altro Cobra, e stava facendo delle prove, lui è abbastanza vicino, ha messo l'attenuatore, cacchia giù, cosa è successo, non funziona più l'apparato, infatti ho visto il segnale tuo, ho detto 7, ho detto che cavolo è successo. Vabbè, Cavagava, no? Comunque, coso, lo stavo ascoltando, quello di Alghero, Mondino. A me non mi arriva manco uno, non solo di arrivare bene a Sassari. Secondo le zone non arriva proprio. No, di qua ma era quasi 9, a me 8 o 9, come ne parlavo arrivava a 9 di picchi. Però vuol dire molte volte arriva anche meglio, perché arriva anche a 9 e 10. Non so come la stava usando, perché lui c'ha due tipi di apparati. E cosa, Falchetto lo ascoltava, basso basso, però lui non sentiva Falchetto. C'ha il che vuote c'ha il Galaxy? No, il Galaxy, il President c'ha. Al Galaxy? Il President Jackson c'ha. Ero convinto che avesse il Galaxy. Si fa che l'attimo Gianni, yeah. È rientrato Falchetto, vabbè, un attimo la Falchetto. L'hai visto quello lì, che quello che stai dicendo tu? Hai visto? Quello lì è il mio, precisamente quello mio. Bello quello lì, no, io pensavo se c'era un altro modello con le manopoline piccole piccole, non mi piace. Allora già, non perché ce l'ho io, ti posso garantire, io ho il 440, già lo sai. A livello di ricezione non è inferiore assolutamente, forse se voglio essere pignolo per certi versi può essere, ma a livello proprio di impercettibile è superiore in ricezione, non prende colpi da niente. Cioè tu vedi gli attacchi sotto casa te ne vengono con 100 watt, schiacciano portante, non senti niente, non vai saturato perché c'ha dei filtri, vabbè, di nuova generazione, tecnologia nuova, e poi non rimanca nulla, cioè tutte le cose possibili e immaginabili. Quello che nelle 10 bande, non devi fare nient'altro che schiacciare il tasto, la tastiera, attacchi e lo commuti, senza fare giri e cose strane. C'ha tutte le cose tipo scansione, ti puoi mettere a memorizzare i canali e ti fai il giro, per dire, ti metti tre canali in memoria e fai andare solo quelli lì in scansione girando, senza andare a prendere, ti puoi mettere il 15, il 20 e il 30, e ti fai, poi ti puoi ascoltare solo due canali e ti sto dicendo è micidiale, però ci vuole un microfono, se non c'è un microfono è una gaggata. Non esce bene di radio. Il mio è normale, tieni presente. C'ho una modifica presa da internet con tutte le cose che si possono fare, che devi ponticellare questo, togliere una resistenza e metterle in un'altra, o un condensatore, non mi ricordo, però fatto dalla casa, te lo porta a 18 watt, il doppio in SSB, e più ti cambia tutto qua, però devi fare, ci vuole uno strumentazione, ci vuole lo scoppio per fare una forma d'onda, ricreare una forma d'onda, e più un coso, un generatore di segnali per fare un'altra cosa. Così l'apparato funziona perfettamente. Per il resto, sto dicendo già, è una bomba, c'ha il wattmetro, perfetto, perché tu lo schiacci e arriva a 4 watt, in tutte le funzioni, in AM, in FM e in banda laterale. C'ha il modulometro, se ti interessa, non te ne vai. Poi c'ha il rosmetro incorporato, e come si chiama? Lo smitter. Lo smitter arriva a 9,60 con un apparato HF. C'è un'indicazione precisissima, perfetta, proprio non è una gaggata a livello strumentale. Basta che lo portiamo a Similiano con la modifica, te la fa tutti quegli strumenti che hai nominato, lui ce li ha. Sì, non lo so, Massimiliano sta facendo lavoro a un apparato audio. C'ha il clarifer doppio, cioè ti fa doppia regolazione, una un po' più ampia, c'ha un doppio regolatore, dove c'è scritto clarifer, c'ha regolazione fine e regolazione più ampia, per dire se sei in banda laterale, lo sai quanto è micidiale è quello. Magari non esce che microfonicamente perché c'è la LC chiusa e basta. Guarda, io l'ho provato col suo microfono, ma se vuoi te lo faccio sentire, anche un secondo ci prego, lo vuoi sentire? Ehi, Dale, chiamando. Cosa? Ti stavo chiamando. Non ti sentivo perché stavano provando le potenze, erano manettone. Dici sì? Ehi, ma ti presente questo, il suo microfono palmare, sicuramente manco se intendi l'apparato. C'è anche il coso, vabbè, quello ormai ce l'hanno tutti, il coso, l'up down, cambio canali, c'è un sacco di filtri, fesserie, cantanti, non lo so, vabbè, mai non te ne vai nulla di quelle cose lì, la tastiera col bip sulla voce, tipo il computer che ti faccia bip bip bip, tutto quanto queste cagatine. Questo è il suo microfono originale, io ho l'Intec, l'amplificato sempre in linea di questo affare, però mi butto a terra le batterie, con quello un po' funziona meglio, però lo volevo provare tipo un Tanner, un microfono del genere, un Tanner o un SBE, c'è un SBE da abbinare, l'ho provato con l'MB più 5 ma non mi piace nulla. Probabilmente ha qualche microfono che magari abbinandolo va meglio, però questo qui non mi piace niente, Rob, c'ha una voce citofonica. Vabbè, te l'ho detto già in partenza, che c'è una gaggata di microfono e in ricezione di trasmissione non è un granché questa parola, però tutto il resto, ti sto dicendo, è micidiale. C'ha una qualità di ricezione, guarda, quando ci sono quei segnali bassi bassi, io ho fatto anche la prova con 140, ma ne manco un visino, hanno prestato un 140, cioè un 140, 440 e questo, tutti vicini, con la stessa antenna e come un tavolo, segnali quelli che arrivano in propagazione bassi, proprio, che manco si intende. Il 140 ha tutto funzionato, il rumore né niente, zero assoluto. 440 un po' li tiravi fuori e questo come 440. Sto dicendo c'ha una ricezione fenomenale. Appaga. Ascoltate, se chiama KP2 o roba del genere, avvisate perché c'ho tutto quanto l'RFGN è chiuso, e sento solo a voi. E comunque già può andare, solo che la radio non è il massimo, la verità. La radio è comprensibile, ma è citofonica proprio. Adesso sto mettendo il modulometro, tieni presente, il modulometro deve arrivare al 100%, sta arrivando al 60% con i picchi, quando alzo la voce arriva a 80%. Se ne muovi un microfono preamplificato, forse qualcosa, sì, vabbè, ci do fuori, io ho un microfono da 3 lire già, non possiamo paragonarlo a un tunnel o a qualcosa di simile. Però si fa ascoltare, dai, basta, però si fa ascoltare. Ce n'era uno 2 anni fa che pure alla fine ha detto cosa me ne voglio di due a Cagliari, lo stavamo vendendo 100 euro, compra subito, non su eBay, non cosa sto dicendo eBay, su quello subito.it, non l'hai mai comprato di lì, 100 euro già modificato, me lo stavo per prendere poi, ho detto ma cosa me ne voglio, una giornata di apparati pure questo ci vuole, però 100 euro l'ha regalato, nuovo. Che cosa stavano vedendo? Questo che c'ho io, questo tipo di Cagliari, ci avevo anche parlato perché gli ho detto se no ci ho già fatto la modifica 18 watt tira. Però visto che ce l'ho già detto usami il volto di un doppio, però era regalato, lo sai quanto lo sta dando uno se lo vuoi compra subito, 260 euro, quel tipo che adesso è arrivato a 125 gli ha detto quanto ne vuoi ricavare se te la vuoi, se te lo vuoi adesso, poi dice almeno 250 euro. C'è uno che le ha offerto un videoproiettore, l'ha detto tutte le cose, cosa gli hanno offerto per quello lì. Addirittura non so cosa cavolo gli voleva dare, ha detto no, non mi interessa, non ha parlato un veicolare della Kenwood. Capagallo. Guarda se c'è qualcuno, sto vedendo lo Iesu, il ricevitore Iesu, quello piccolino, tipo un pacchetto di sigarette. Quello portatilino? No, già quello è bello, come te lo stai vendendo già? Devo prendere un altro apparecchio. Ma se facciamo riprendere a Capri? Via Capri, scusa, Falche come mi ascolti con questo? Ah, io direi la verità, ti ascolto un po' nasino, diciamo, eh. Vabbè, no, non parliamo, io parlo come livello di segnale, com'è questo? Ah, ultimo, come segnale ultimo, non c'è di che, guarda, è troppo bello. Adesso poi ti faccio sentire, mi aspettate un attimino, facciamo un confronto con un altro baracchino. Dai, continuate un attimino e poi rientro, ti metto l'altro baracchino. Fagli girare. Vabbè, Falche, cosa ne combinendi? Cosa stavi piccionciando? Allora, mi sono portato il fiasco qua dentro perché mi sono rotto le palle di stare andando in cucina, a cavalletto, cucina, cavalletto. Quindi te la regalo in chi direttamente? Direttamente, c'era 50, c'era da dove sta portando quel vino? In camera, non ti preoccupare. Si sembra che gli di fianco. Perdura. Questo giocato lo com'è? Sì, questo va meglio. Aspettate qua, non ho una mesetta che c'ho il quello della questo pace sono nome che non posso camminare, cioè quello della calibrazione a manetta, sono spacco lo strumentino, sto regolando la calibrazione. Questo è il tunnel più 3 con pace senza le base. Dal giorno alla notte cambia, però c'è anche un microfono amplificato qua, E già si sente la differenza, no? Ma questo ho trovato l'abbinamento giusto, ne ho provate MB più 4, più 5, M93 tutto, questo è quello che si è adattato meglio. L'unico che non ho provato ancora è l'SBE, che devo trovare uno in condizioni di sistemarlo. E tu fai anche con questo come mi ascolti? L'SBE lo deve anche a te lo sistema al tavolo, sembra che stia parlando qua vicino a me. Meglio di quello, non dico quello che era più basso, di quell'altro più grande che ho usato prima. È positivo, bella, chiara e pulita la voce. Bella, guarda questo. Oh mia. Chi è meglio? Questo che hai già parlato adesso. Questo è migliore? Positivo al 100. Tu già. Tu qui che cosa è? Questo è grande. Diciamo che... No, io preferivo, la modulazione la preferivo dell'altro. La timbrica preferisco quella del TAR. Un po' di gente me l'ha detto come questo. Luca preferisce il tunnel, quello di Alghero lo stesso preferisce il tunnel. Qua a Sassari certe molte persone preferiscono questo, che dice che è più... Però come io penso che come fedeltà l'altro, sì, magari questo spingerà 4 volte tanto, però come fedeltà forse l'altro è migliore, così è già. Mi crede lei che spinga 4 volte tanto, guarda che il tunnel va benissimo. Come fedeltà sì, è molto migliore il tunnel, secondo me era... la modulazione è chiara, limpida proprio, invece questo qua è un po' strappato. Questo, vabbè, qua posso abbassare un bel, qua sono al minimo, posso ancora poi scendere un pochettino. Gappa, adesso sta andando meglio, va. Preferisco sempre il TAN, preferisco, ma addirittura il TAN c'era gente che lo attaccava, il TAN che lo attaccava a parecchi radioamatoriali. Sì, un po' di gente, ma la laterale dice che funziona bene il TAN con il Kenwood. Che in banda laterale solitamente si devono usare i microfoni normali, perché se no tendono a strappare in banda laterale. E invece quello, il tunnel va bene per tutto. È un microfono che ha una capsula che si adatta a molte cose. Pensate che ce l'ho buttato uno. Il tunnel? Meglio. Già, non l'avrei voluto già. Buttato capsula e tutto. Quando avevo finito di... praticamente si trattava di una decina d'anni fa, che poi non dovevo più modulare, ho venduto tutto quanto e era rimasto il tunnel e un giorno ho preso e ho detto ma cosa me ne vuoi, se c'è bello di agifuto. C'era Lucianazzi a Capri che lui dice c'ha le capsule del tunnel più 3, vai se capita gli dico perché devo fare una corretta a un altro microfono. A te ridarsi, tu non te le dà quello lì no. Quello è troppo geloso delle cose sue, ma sai cosa tutto c'ha di moto, se le praticamente le rifà il motore, se le rivernicia, c'ha di quel Kawasaki 350, tutte quelle moto antiche degli anni 70, la Vespa, la Lambretta, il Guzzi, tutte queste moto qua, se le fa tutte quante nuove di zecca, ma belle. Sì, sì, infatti un giorno che capita qualche discussione, no, io sono appassionato di roba d'epoca, sia di moto che di macchine, ne facciamo, vabbè io lo faccio per lavoro, e volevo avere infatti anche parlarne un po' con lui, magari molte volte trovi un dialogo, una discussione interessante per tutti e due. Vabbè, a lui già si arrangia a fare tutto, già si fa tutto lui, sia motore, sia verniciatura, si arrangia a fare tutto. E adesso ne sta vendendo una, mi pare. No, non mi ricordo se è un Suzuki che sta vendendo, un Suzuki. Me l'ha detto se lo volevo. Tu, se ti compri la mia te la vendo. Anche quello senti da adesso a Falchetto, con la apparecchiatura attaccata, come esce con quel microfono? Avanti Falchetto. Ehi, Gabarocci, come mi senti? No, fa un passaggio lungo, normale. Ma allora, no, volevo sentirti il livello e le modulazioni, come vai avanti. Gabarocci, niente, tutto bene, abbiamo... trabagliato oggi, dovevo uscire alle 4 e invece mi ha fatto uscire alle 4:20 e io marco 4:20 dalle 7 del mattino però allora quando ho un microfono a palmo questo fa che allora microfono a palmo ma puoi alzarlo un peluzzino il livello? Sono al massimo, diciamo, va benissimo così, potresti teoricamente se riuscissi a perabrata lo sai l'ottimale di farlo. Comunque va benissimo, rispetto all'altro giorno c'è un abisso, l'altro giorno sta uscendo proprio male. Capparoccia, adesso sta uscendo bene, no? A parte mia va benissimo, diciamo per essere pignolo dovresti avere un pochettino più di acuti, rispetto a Gianni per dire, non so Gianni cosa c'ha bene il microfono, lui c'ha un pochettino più di acuti, però mi piacciono le tonalità medie, medio-basse e basse, ce le hai molto, molto naturali, un pochettino un po' di più di acuti e di medi acuti dovresti avere, però la modulazione è 5 piena pulita. Quel microfono che sta usando è tutto acuti, solo che la sua voce che la rende così robe, quello lì è praticamente la static dal palmo. Ma cos'è il coso? Come cavolo si chiama? Diavolo? Come si chiama? Il Diavolo Rosso? Praticamente l'interno del Diavolo Rosso, sì. È lo stesso microfono, solo che lo fa non era il rosso. Quello rosso viene chiamato Diavolo Rosso, quello lì viene chiamato Astatic Noir o una cosa del genere. E praticamente comunque tutto l'ingranaggio interno, tutto la storia interna che c'ha è come il diavolo. Cacchio già l'ingranaggio interno, la siamo venuti. Vabbè, volevo dire tutta la struttura interna che c'ha, il circuito, come lo chiama? Adesso già ti sei, ho capito lo stesso, ma siccome qua prendiamo gli appunti quando si sbaglia, si dice circuito. E vabbè, già lo so dire anch'io circuito, ma non mi veniva la parola e ho sparato una cazzata. Circuito. Luca, tu che hai studiato. Cosa già? Circuito. Microfono. Secondo che microfono è? Vabbè, potenziometri, cursori. Vabbè, ma non sono grandi, sono come ponenti elettrici. Comunque già ho tradotto fin di... Siamo scherzati. Ah, ci sono le lamelle per dire, se tu apri un microfono di Tokai... Aspetta che ti hanno schiacciato il butto, chi è che ha parlato avanti? Chi è che ha parlato? Anche tu sei? Sono negativo. Allora è un altro moto più forte, che ha cremato a tutti. Avanti che vuole entrare. Non so chi sia, vabbè, riprendi già, che non ho capito quello che hai detto. Vabbè, a futtettini, dai. Ma ha schiacciato a tutti, cioè era 9.40 arrivato qua. Pensavo fosse magari Falchetto, ma è più alto di lui pure. Era una portante. No, oh, stavano facendo così, tipo parlando. Strano. Sono che non c'è qualcuno che è passato in macchina qua vicino, perché era... ti hanno entrato già, proprio non esisteva. E poi ho sentito forse qualche donato, Falchetto, Luca, non lo so, che ha schiacciato anche lui. Loro arrivano fortissimi qua. Allora, gara. Lo pensi, a riprende. Luca. Non ho niente. Se vuoi mi rispondo a bocca piena. Magna, magna, sennò per andare traverso. Stai facendo, non hai sentito l'amico nostro, lui, a Salvatore. Signor Gignali. Ma io stavo andando a Centoflatte pure, infatti quando Claudio ha detto, voglio vedere, ha fatto, no, già, non c'è Giulia, c'è là di fronte, hai fatto dei vebuni, mille, va a passare. No, la modulazione è una cagata, l'hai sentito? Magari con gli apparecchi non vanno bene il 27, secondo che apparecchi stavo usando. Sì, no, infatti, no, ma abbiamo fatto la prova, ci siamo sentiti stasera, l'ho chiamato, poi ho detto, beh, fammi sentire il giocattolo. In FM c'è molto bene in banda laterale, però è talmente stretto in banda laterale, ho trovato difficoltà anche io a sentirlo, perché, forse non so che sistema c'hanno quel tipo di apparato, è stretto, cioè normalmente tu come ti sposti ti c'è, quello è proprio giusto, cacchio, non ti puoi spostare di un peluzzo. In AM è proprio una voce come quando ti metti, stai mangiando, c'è presente, c'è una caramella in bocca, così stava uscendo. L'ho sentito, sì, l'ascolto. Io ci sono sempre, l'ascolto. Già, e chi c'ha da dare? E tu senti che della mano a baccare con i lampioni. Non lo so, comunque, non so chi sia, comunque un segnalone qua. Sì, aspetta, ma io, dai, quando si fa un discorso, certo, ma la gente è proprio stupida, Dai, inutile parlare, continuiamo, adesso è peggio. Va bene, comunque già, quella lì era arrivata, guardato stamattina, mi pare 125 euro, c'erano 8 offerte quell'apparato lì. Secondo me, vabbè, 200 euro tu mi dai tanto, fino a 200 euro si può prendere. Sembra un uovo fiammante, in fotografia ci sono tutte le foto, l'hai visto? E 200 euro, registrata, va. Buonasera a tutti, Natalino Alfa 1. Natalino, ben sentito. Ciao Natalino, ben sentito. Ciao Natalino, ben sentito anche a te. E beh, la radio ti piace adesso perché ho cambiato la capsula, questa cosa. Così Natalino, non è gusto mio, cioè io dico, aspetta, prova a parlare di nuovo. Ma non le serva molto bene come radio. Ma scusa, ma... Cosa, vabbè? Prova a parlare, non ti sta, non sta guardando l'analizzatore, prova a parlare. È inutile a me dire l'analizzatore, a me mi interessa l'argomento in intenti. Ma gli sembra raffreddato, cioè quando c'è un po' di raffreddore che ti chiude un po' le tonalità acute, ti mancano un po' di tonalità acute. La radio è chiara a 5, però non è il gusto mio, là. Io sono un po' raffreddato, è la verità. Oh, yeah. Vabbè, se sei raffreddato sei scusato. No, non è chiara, però da lì, io adesso facendo un confronto adesso per dire con quella di Gianni, mi piace più la sua. Andrà bene, o vi prendete questa alla radio, o non ne prendete altre. Basta. Va bene così, non ti arrabbia che poi ti fa male, e poi come dice una persona non te lo dico io. No, mi adigo io già non mi adigo. Meglio che non mi adighi mai. Come dice, come ti chiama? Basta, Guido. Ma ho detto, meglio che non mi adiri mai, perché sono brutto a vedersi quando sono adirato, capito? Non sai come ti è dedicata, mi hanno detto una battuta stamattina, Rosimini già la conoscete tutta. Ehi! Ecco, dice che Berlusconi ha risposto alla trasmissione, dice, aspetta come te la baraula, dice, c'è l'intelligenza quanto sei bella. Quello. Allora, deve cantare Fabi. fammi crescere i denti davanti, te ne prego bambino Gesù. E qua. Vabbè, non parlamentiamo in merito, se no siamo stati fa bene, dico. No, ma stai dicendo, ci pensi cosa hai detto? Mica sei a volte, hai detto, sei intelligente quanto sei bella. Praticamente la distruggerà un cane, e mi la puoi ignorare. Quella io l'avevo detto, non cazzo, guarda, tipa peggio di quella, falsa e opportunista, io ho sentito dalle studie, lo conosci quel prete che ha fatto questa, come si chiama quella clinica che c'è a Roma? A Roma, scusa, a Milano, San Raffaele. No. Capito, rimesso, ma comunque va. Stava parlando con un muro. Allora, c'è un prete che oggi ho intervistato alla televisione, che è quello che ha fondato il San Raffaele di Milano, ha investito un sacco di soldi, è stato anni e anni cercando di recuperare i soldi. Questa guasta gli aveva bloccato tutto quanto, tutti i lavori, non li faceva andare avanti, il Carrosibin, dimmi. Infatti l'ha fatta a pezzettini, ha detto, non si è mai presentata, quando io andavo cercavo di parlare, di fare, non si è mai presentata, si è sempre negata. La Rivera Report 2 settimane fa, non ha raccontato certe storie di chi tra imbecille, ma proprio una tifa da voler arrestare, da arrestare. Ma questi comunisti catatonici sono tutti così. C'è gente che dopo aver militato lì, non è più andato a votare, non solo l'altro, perché sono stati trattati male dagli stessi compagni. No, vabbè, non parliamo di politica, non la futi nostra destra e sinistra, io sto parlando della persona, perché io posso non essere dello stesso partito o essere dello stesso partito, io sto parlando della persona Bindi, non stiamo parlando di partiti o non partiti, perché per me partiti uno uguale l'altro, di delinquente uno e delinquente l'altro, da tutte le parti ci sono i delinquenti, forse quando era Mazzini e l'altro Galera e Cavour forse c'era un po' più di onestà, perché sono tutta gente che fa solo interessi personali e basta, va a fare politica che si va a tenere di là e bu, se no non verrà mai andata. Infatti, tu prova a abbassare gli stipendi a 1000 euro come prendo io a vedere se ci vanno a fare così. Infatti quello che ti sto dicendo io è quello discorso, ormai è diventato un mestiere fare il politico, tu basta andare nei comuni, nelle province, ti sistemi per tutta la vita, se riesci a entrare lì sei sistemato, per cui chiudiamo il discorso qua che mi va di solo la rabbia quando vedo sento certe storie. Però parlando di questa signora qua, che la reputa ministra, un ignorante, una faziosa, tutto quello possibile, ma indipendentemente dal partito, non sto dicendo il partito. Infatti, indipendentemente dal partito, è una, guarda, una femmina ributtante. Chi sa, non è che arriva di concorrenza, la conosci Margherita Hack? Margherita? Hack, forse già ne la conosci già. No, io mi sono oggi in questo programma di Barbara D'Urso, il gatto Corona, l'ha fatta beffa, ne è di tutti i colori, che non era buona a fare la giornalista, che ha fatto di tutto per distruggerlo, non so, ne ha detto tutti di colori al telefono. Come se c'è la notizia, ieri l'ho visto io. No, l'hanno fatto vedere oggi da Barbara D'Urso, il programma di Barbara D'Urso ha telefonato e ha detto che ha fatto tutto, che ha fatto andare il figlio lì, non so che cosa, ha fatto tutto per distruggerlo, che farà di tutto per farla schiattare, non so che cosa. E tutti di culo, ha detto che intanto lo serviva come giornalista, che era inutile che faceva giornalista, perché il giornalista non c'aveva nulla lì. Allora, dopo ti continuo il discorso. Ma guarda che è Margherita, che ti dà la radioastronoma con la scienziata brutta che sembra un maschio. Non l'hai mai vista? Con capelli tipo Rosy Bindi, brizzolati, pare un bascio, dai. L'ho vista, però c'è un'intelligenza. Ma come sei intelligente? È un premio Nobel questo. Punto, capito, è un premio Nobel. Quella Gianni. Parlando di Corona, tu forse hai visto la seconda parte della telefonata. Allora, quel signore lì, nel programma di Barbara D'Urso, che io l'ho visto tutto quanto, c'era questa tipa, non so cosa cavolo sia, se attrice o cosa del genere, gli ha detto, gli ha proposto Fabrizio Corona, è andato lui personalmente, gli ha detto, se tu vuoi andare in televisione, io entro un mese ti faccio andare nei migliori programmi, quello di Barbara D'Urso, quello di Nosso Gruga, Domenica Ino, cosa del genere, tu mi devi dare, prima gli ha detto 30.000 euro, come ti ha dato 30.000 euro, se l'ha guardato, gli ha detto no, 10.000 euro, e gli ha spillato 10.000 euro, e dice, io ti garantisco che tu ti fai tre esibizioni nelle trasmissioni più importanti. Allora, quando stava parlando, raccontando questa storia qua, infatti Barbara D'Urso dice, ma stiamo scherzando, la mia trasmissione, a parte ha detto, non è la mia, io sono una delle conduttrici, però dell'autore, mai è successa una cosa del genere che ci dovessi pagare una persona per entrare o tramite incursi. Allora ti ha telefonato lui, ha iniziato a dirgli in tutti i colori, l'ha fatta a pezzettini, rinnegando tutto quello che aveva detto, ma poi ha detto, io ho le prove, ho le registrazioni, ho tutto quanto. E chi lo sa chi è che dice le bugie? Sicuramente Fabrizio Colonna, perché un attimo non si può scomodare e andare in una trasmissione e dire fare nome e cognome, quello che gli ha dato, eccetera, eccetera. E Fabrizio Colonna ha negato tutto, ha detto non è vero, io faccio, c'ho dei contatti, però non funziona come dite voi, un sacco di tu ti ricordi quello che Fabrizio Colonna aveva detto, un sacco di storie, che non era vero, poi l'hanno condannato, i soldi, ti ricordi dei soldi falsi, l'hanno condannato a prendere di là dalla macchina, ma è un grande bugiardo, lasciamo perdere. E ne ha rimbilato la battuta che era Gotto, ne ha fatto sempre in mezzo alla giustizia, è saputo che è un delinquente. Dillo a me cosa ha fatto, come ti si chiama, Muriello. L'ex bissino di Balea Rodrigo, so cosa sia, che sta guasta. Insomma, ma comunque già è saputo che è così. Sì, stasera l'ho fatto vedere con la tipa bionda, che stai dicendo tu. E quella la tipa bionda un po' riccia, dai, capelli un po' mussi. Sì, già. Ma Baldus ha detto, innanzitutto io non faccio pagare e non pago a nessuno di quelli che vengono qua, perché io li invito proprio come salotto e basta, non li paghiamo per venire. Guarda, non per dire, Baldus è una persona seria, io l'ho vista quando avevo fatto lo scherzo a cosa, a scherzi a parte, e lì ti rendi conto effettivamente com'è la persona. Le aveva fatto lo scherzo quel tipo che fa le previsioni del tempo, non mi ricordo come si chiama, che l'ha messa anche è stata una persona veramente di polso, intelligente, e si è comportata in un modo veramente in gamba. E la maggior parte di questi guatti, di questi star dello spettacolo, sono degli imbecilli dietro nelle retroguardie, cioè parliamo. Dai. Quando sono in televisione te li vedi tutti i gatti gussimi, poi li senti dietro e sono delle persone insignificanti. Mentre Barbara Russo si è mostrata una persona molto intelligente, matura e veramente in gamba. Ma che buona! A me quello è normale, dai, in televisione normalmente non ti mettono le brutte. Che se c'è qualcosa in più, Robert, meglio, allora avanti, in realtà. Su questo si apri anche l'acqua, beh. Mi è la bucaccione, parliamo bene che c'è gente che ascolta. Io non ho parlato male, adesso su questo, non sai a questi li pulirà, su questi che ruci, non sai cosa li pulirai. Scusate, la stazione è porno? Qui avanti c'è Natalino, e come si chiama? Rocco Siffredi. Infatti ha detto due colpi, non ho detto altro. Non l'ho vista qua, ma pensa che la leva, chissà quanti di là, all'hotel Leonardo da Vinci, l'ho vista lì. Chi è Barbarella? È lui. La vagava, e cosa c'era, spettacolo qua a Sassi? Non so, e lì era, stava appena arrivando dall'aeroporto.